A bordo campo di Dario Ricci. I want to ride my bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. San Sebastian, Spagna, Paesi Baschi per la precisione, 1973. Oggi a bordo campo vi raccontiamo una storia di ciclismo, del ciclismo forse più olimpico, quello su pista, perché la grande tradizione forse è proprio quella del ciclismo su pista, a cinque cerchi, anche se noi adesso l'Italia non se la passa benissimo, ma vediamo un po' che succede nei prossimi mesi. È una storia di un gesto clamoroso di sportività e di valori olimpici, anche se siamo nell'ambito dei campionati del mondo. Una storia che vi raccontiamo insieme e grazie soprattutto alla voce del nostro cantautore per eccellenza, Biagio Vinella, che ci è tornato a trovare. Buongiorno Biagio. Buongiorno a te e a voi, a tutti quanti. Grazie per essere ancora al nostro microfono per raccontarci le storie della storia dello sport che approfondisci e ami poi divulgare. Beh, senti, San Sebastian, 1973. Mondiali di ciclismo su pista, che succede? Che storia ci racconti? Perché c'è anche un collegamento con le Olimpiadi, perché andiamo a seguire le evoluzioni di un quartetto che è campione olimpico. Sì, un quartetto straordinario, imbattuti da 2 anni e mezzo, nessuna gara persa. Sono Günther Schumacher, Peter Vonhoff, Hans Lutz e Günther Aritz. Magari la mia pronuncia... Beh, sembrano tedeschi. No, da come ho detto, sì, ci ho provato, ecco, effettivamente. Sì. Tedeschi occidentali, delle macchine. Macchine programmate per vincere i mondiali su inseguimento, su pista. Un quartetto straordinario, di una precisione nei cambi, di una potenza muscolare. Veramente un gruppo di atleti straordinari. E chiaramente mondiali. Arrivano sparati in finale, ma praticamente in semifinale contro la Polonia passeggiano quasi. Il titolo dovrebbe, è loro, non si può discutere. Una formalità, ecco, manca un timbro su un diploma. Una formalità, una vera formalità. A contendere questo titolo, un gruppo di studenti, qualcosa di più di studenti, comunque della Gran Bretagna. Mm-hmm. Michael Bennett, Richard Evans, Ian Haslam e William Moore. Questi ragazzi arrivano a fare il mondiale, che per loro era già un sogno esserci, per una serie di momento, questo magico momento in cui sono loro, quello che arrivano dopo una battaglia pazzesca contro gli olandesi, arrivano a qualificarsi per la finale. Loro sono... Ce li immaginiamo la sera prima della finale, questi ragazzi inglesi, magari in un pub o in un bar di San Sebastian, già scolarsi qualche birra, perché può già essere, la soddisfazione può... era tanta. Ah, sì, ma non diciamo assolutamente, poi non c'è tradizione in Gran Bretagna particolare sulla pista. Cioè, allora c'è no, stata, adesso sono molto io forti, ti parlo di allora. Ma nel 73 erano veramente dei carneadi. Era lo spirito in cui loro, vero, in cui vivevano questa avventura, cioè essere arrivati alla finale per loro era una cosa, medaglia d'argento per loro era già un traguardo impensabile all'inizio, e si arriva al giorno della finale, per cui i tedeschi assolutamente tranquilli, sereni, anche riposati, pronti a portare a compimento, certo, la missione, insomma. E in più con una sorta di cinismo, chiamiamolo cinismo, l'inseguimento a squadre sono questi 4 chilometri, questo anello che varia dai 400 ai 500 metri, no? Dove partono, diciamo, contrapposti, e questo lo dico, chiaramente, sì, Dario, certo, tu queste cose le sai, no, mettiamo no, caso che qualcuno non lo sappia. Scherzi. Si tratta semplicemente di percorrere questi 4 chilometri nel minor tempo possibile, vince chi li percorre in minor tempo, oppure chi viene raggiunto. Certo, praticamente non si respira, si corre quasi in totale apnea, assolutamente, velocità clamorose, non tra i 70 e 80 all'ora. Ma non puoi sbagliare niente, assolutamente, questi cambi, che in televisione non ci si rende conto, sono dei marziani questi, veramente dei marziani. E questa gara l'avvio, per cui abbiamo queste due squadre, e chiaramente già da pochi metri ci si rende conto che la storia è praticamente finita, però i tedeschi hanno questo, con il cinismo di cui ti accennavo prima, loro non vogliono solamente vincere il mondiale, che è loro. Loro non vogliono fare un tempo eccezionale, loro vogliono raggiungere l'altro quartetto. Cioè, che per loro era questo il loro obiettivo, cioè dimostrare proprio la loro superiorità assoluta. Anche perché bisogna darsi degli obiettivi, visto questa superiorità, visto già i tanti ori vinti, dice, beh, cerchiamo di fare le cose fatte bene. Loro vogliono essere la prima squadra di una finale, di un mondiale, che riesce a raggiungere l'altra squadra. Per cui, diciamo, si pongono questo obiettivo e partono in questa maniera. È una cosa impressionante. Incominciano a pedalare ed è veramente un treno. I britannici si rendono conto che la storia sarà veramente durissima per loro, durissima. Infatti, dopo neanche un paio di giri, uno di loro non ce la fa, si deve allontanare, per cui continuano in 3 contro 4. Cioè, quindi praticamente è persa. Persa assolutamente, e in più sentendo la campanella, lì c'è la campanella. Sì, la sentiamo nelle orecchie. Per cui loro sentono la campanella dei tedeschi, sì. E la loro no, e poi sentono la loro, e ogni giro che passa è... sempre più lontana. Questo vuol dire che si stanno avvicinando, perché non hai tempo, come dicevi tu prima, di voltarti, vedere quello che succede. Non ce l'hai, sei assolutamente sotto in tutte le maniere. Ma detta così sarebbe troppo facile, perché a un certo punto allora arriviamo appunto al fatidico ultimo giro, no? Perché l'ultimo giro è sempre dove succede. Gli inglesi, i britannici, uno sforzo incredibile per riuscire a farsi raggiungere, perché i 4 tedeschi ormai c'erano già nel mirino, possono raggiungerli. Si rendono conto i britannici di quello che sta capitando, e allora ce la mettono tutta per non farsi raggiungere, e riescono a tagliare il traguardo senza essere raggiunti dai tedeschi. Chiaramente sono stremati, fanno un giro in alto perché sentono un boato incredibile della folla. Immaginiamoci che cosa può essere un velodromo, no? Pieno di, non so, 10-15 mila persone, fine di una gara, quello che è, non si rendono conto di quello che succede. Semplicemente poi si fermano e c'è la voce dello speaker che dice: classifica del campionato mondiale di inseguimento su pista, prima squadra classificata Gran Bretagna, seconda squadra Germania Occidentale. Si guarda, dice questo speaker, andato giù forte con la sangria. È impossibile recuperare, cioè ci stavano per recuperare, non è possibile che siamo arrivati noi primi, no? A questo punto si rendono conto di quello che è successo. In pratica vedono un nugolo di persone vicine a una curva, no? Proprio prima dell'arrivo, e si rendono conto di quello che è capitato, ovvero sia un fotografo voleva fare, sai, quei bei primi piani, no? Del quartetto lanciato, tutti uno fila dietro l'altro. Il problema è che forse non ha calcolato la velocità con cui stavano andando questi ragazzi e si è attardato. Per cui il primo, che era proprio Schumacher, arrivando come un treno, l'ha preso dentro la spalla. Cadendo lui, sono caduti tutti quanti gli altri 3. Uno si è fratturato il bacino, l'altro ha perso 4 denti, gli altri 2, tutti e 4. Un dramma sportivo, e non solo, anche per le conseguenze anche fisiche. Le conseguenze, certo. E allora questi 4 ragazzi britannici dicono: siamo campioni del mondo. Bisogna andare a prendere la medaglia sul podio. Però, insomma, sai, campioni del mondo, sì, però sai, loro hanno sognato di arrivare a fare il mondiale, hanno sognato di arrivare in finale, hanno sognato anche di vincere il mondiale. Così no, così non è, così non vince un mondiale, no? E allora si guardano negli occhi e dicono: no. Allora, e su quel podio che succede? E allora succede questo, che sul podio arriva innanzitutto l'allenatore, perché gli altri, tutti i tedeschi, erano in ormai direttamente in ospedale, non erano in grado di poter stare lì. Causa questa catastrofica caduta. Si presentano gli olandesi, che hanno vinto poi contro la Polonia, e loro sono lì, e prima che inizi la cerimonia non ce la fanno. E il capitano di questa squadra, va dal giudice e dice: no, guardate, noi non vogliamo questo titolo, non ci appartiene, cioè non siamo noi campioni del mondo, qui ci stavano quasi per raggiungere, non sarebbe un'infamia che vincessimo noi al posto loro, perché loro sono i veri campioni. Quello che è successo non è neanche colpa loro, non è che sono caduti perché magari uno è scivolato, hanno sbagliato un cambio, è proprio un qualcosa di assolutamente fortuito. Sono loro i campioni del mondo, noi questa medaglia non la vogliamo. Il giudice chiaramente ci pensa, va a parlare con gli altri della giuria e decidono di fare come volevano i britannici. Per cui sul podio, con grande sorpresa anche dell'allenatore della Germania occidentale, si vedono che i ragazzi della Gran Bretagna si mettono dove c'è il secondo posto e fanno andare loro, l'allenatore della Germania, al primo posto. Cerimonia, pubblico, un'ovazione incredibile, incredibile, cioè per quello che è capitato, cioè abituati come si è, come si era e come purtroppo si è oggi a vincere a tutti i costi. Qua tu hai quattro ragazzi che non hanno più vinto niente, probabilmente magari hanno, non dico che hanno smesso, magari saranno diventati dei, poi magari la racconteremo in un'altra storia, che cosa sono diventati, magari dei magari, ricercatori, dei professori cercare, universitari. Ma che ne sai, però capito, loro in questo momento hanno detto no, basta, cioè non, io non sono un campione mondiale, non, perché? Perché io? Ce li ricordi i nomi di questi quattro inglesi? Ah sì sì, certo, il capitano era Michael Bennett, cioè Richard Evans, Ian Haslam e William Moore. Beh, a noi a bordo campo questa storia di questi quattro moschettieri ci è piaciuta parecchio, perché è vero, lo sport obbliga anche al rispetto delle regole, dei regolamenti, e quindi il risultato del campo va sempre accettato. Ma questi quattro ragazzi che hanno avuto quasi così pudore del loro sogno di vittoria da non volerlo macchiare con un dubbio, con un'incertezza, con un colpo pur legittimo della sorte, secondo noi andavano ricordati, e ci fa piacere averlo ricordato a noi stessi prima di tutto, a voi ascoltatori, e soprattutto averlo fatto grazie alla voce e alla sapienza di Biagio Vinella, che è stato anche oggi nostro ospite qui a bordo campo. Grazie Biagio. Grazie a te. A bordo campo di Dario Ricci. Più di un desiderio, quello olimpico è un sogno. Figurarsi per noi che le guardiamo, no? E sapete quanto qua a bordo campo siamo appassionati dei giochi olimpici, ma ancor di più per chi vi partecipa. Allora oggi vi raccontiamo un'altra storia sulla strada che ci accompagna verso Londra 2012, una storia di emozioni, di passione, di ribellione e di determinazione che va oltre il risultato che pure su una pista d'atletica si può ottenere. Una storia che ci racconterà soprattutto la voce e la maestria del cantatore per eccellenza, amico qui di A Bordo Campo. Ben ritrovato Biagio Vinella. Ben ritrovato a voi. Ci vieni spesso a far compagnia, sì, con le tue storie di sport, e oggi ci aiuterai a fare un tuffo su quel golfo che in questi anni è stato infiammato da una delle più terribili e sanguinose guerre moderne, la guerra contro il regime di Saddam Hussein per liberare l'Iraq, pur con tutte le sue contraddizioni, dal giogo del dittatore. Un gioco che, sull'altare del quale sono stati sacrificati molti sogni anche di sport, no? Abbiamo visto Biagio in questi mesi, in questi anni, le storie che arrivano per esempio relative a come venivano asserviti i calciatori della nazionale irachena al regime di Saddam, vero? Sì, sono arrivati appunto anche a far giocare a pallone per punizione queste squadre tra di loro, con dei palloni che pesavano 3-4 kg, cioè si spaccavano i piedi, era questo. Oppure i cestisti dopo una sconfitta erano stati messi in delle celle in cui loro dovevano stare praticamente gobbi, non riuscivano neanche a muoversi. Questa era la... Del resto chi gestiva questa cosa era il figlio, Uday. Sì, Uday, che praticamente aveva potere di vita e di morte, hai detto bene. E poi era uno sport, e poi soprattutto anche per quella nazione lo sport era un fatto solamente maschile, non era assolutamente femminile, anzi le donne erano assolutamente malviste. Assolutamente. Invece quella che ci racconti oggi è una storia di libertà e al femminile, vero? Sì, di libertà al femminile, esatto, sì. Direi che è giusto quello che tu dici. La storia di Amdija Ahmed. Sì. Chi era questa donna? Chi è questa donna? Sì, c'è tuttora. Lei era una pentatleta, diciamo, soprattutto specializzata nel giavellotto. Giavellotto, però nuotava bene, andava bene a cavallo, per cui probabilmente, diciamo, avrebbe potuto avere successo in tutti gli sport. Era una grande atleta e con un sogno: le Olimpiadi. Lei voleva partecipare alle Olimpiadi, ma questa cosa non era ben vista da parte del regime, e lei chiedeva anche dimostrando, vinceva anche le gare in cui lei ha partecipato, le ha vinte praticamente tutte, in Asia, in Medio Oriente, però lei voleva qualcosa di più, voleva partecipare alle Olimpiadi. E allora chiede con insistenza anche di poter partecipare a queste Olimpiadi. È il sogno di una vita di qualsiasi atleta, no? Parliamo di una donna nel fiore della sua età, nella forza più totale. Era veramente il momento giusto per questo, e per lei anche un attimo un motivo di libertà, di portare avanti un messaggio importante. E per risposta all'ennesima richiesta di partecipare alle Olimpiadi arriva a casa un funzionario del regime, il quale l'invita a venire al palazzo a Baghdad, al palazzo di Saddam Hussein. Esatto. Lei, sembrano schiudersi le porte di questo sogno. Lei è convinta, lei va via felice da casa sua, perché sa che potrebbe essere veramente il momento importante per lei. Si trova lì e un funzionario che la riceve gli dice chiaramente, che le chiede: ma tu sei capace a nuotare molto bene, vero? Certo, immaginiamo Akhmija che vede lì vicino questo sogno e dice: caspita, se non sono capace io. E dice di sì, io sì, sono bravissima, c'è i tempi, tutte le medaglie che ha vinto, queste cose. Dice, immaginiamo là con le medaglie in mano, quasi col libro dei suoi tempi, quasi a voler dimostrare che sono la persona giusta per rappresentare questo paese sul palcoscenico sportivo più importante al mondo. Esatto, proprio così. Ma Saddam non fa di questi regali, no, non faceva infatti, di questi regali. E infatti le dice: va bene, allora da domani vieni a fare la bagnina, a curare la piscina del palazzo di Saddam. E dice: ma com'è? Cioè io un atleta, cioè che anni che lavoro per fare la bagnina. Sì, non lo faccio, non posso venire a fare questo. Ha il coraggio di dire di no a Khmija. E loro gli dicono: guarda, ti diamo da pensare 24 ore, entro 24 ore o vieni oppure te e la tua famiglia non ci sarete più, verrete tutti sterminati. Questo punto è il ricatto del dittatore e del regime. Sì, 1983, a questo punto lei non ha alternative, cosa può fare? Ci sarebbe stata a Los Angeles, no? Mi viene, sì, 1984, sì, esatto, dove tra l'altro vinse una donna marocchina nel mezzofondo, El Moutakawel, prima donna da un paese del Nord Africa a conquistare l'oro, una liberatrice per molti aspetti. Certo. E lei cosa fa? Lei dice: va bene. E per 20 anni, lei presta servizio in piscina, controlla la temperatura dell'acqua, prepara gli asciugamani, lei che era un'atleta straordinaria. E lei cosa fa però? Per non darsi per vinta, lei continua di nascosto, perché di nascosto, ad allenarsi. Appena può esce, corre, fa tutto quello che poteva fare, ma chiaramente senza libertà non ci si riesce a preparare bene. E passano 20 anni fin quando crolla il regime. Hai detto una cosa giusta, senza libertà questi sogni non posso. È la condizione, è il prerequisito per cui tutti noi dobbiamo combattere, no? Sì, esatto. per avere la nostra possibilità. Esatto, era che lei solo questo chiedeva, avere una possibilità, e invece niente. E allora lei comunque cerca, ma anche per sentirsi viva, per sentire che è ancora viva, che il suo sogno poteva ancora continuare a esistere, e per 20 anni fa questo, poi crolla il regime. E lei fa una cosa, secondo me, ancora straordinaria. Il giorno dopo si va a procurare un giavellotto e riprende ad allenarsi. Pensiamola, immaginiamola a Baghdad il giorno dopo che davanti alla televisione noi stavamo guardando cadere quella statua, no? Che l'immagine simbolo del crollo di quel regime. Ebbene, Akhmija Ahmed col suo giavellotto, sicuramente artigianale, non tecnologico, no, che prova a rivivere quelle emozioni, quelle sensazioni della sua giovinezza, perché lei vuole andare alle Olimpiadi di Pechino. Questa era la sua idea, questa era il suo pallino, ma non per vincere quelle Olimpiadi assolutamente, ma proprio per dire: ci sono, esisto. Fa 50 metri, 55 metri, il limite è 70 metri, non ce la fa. Ma questo secondo me è un dato relativo, diciamo, la cosa straordinaria è che comunque si può spezzare una vita, si possono spegnere le persone, si possono torturare, si può fare tutto, ma il pensiero, l'idea, quella non si può spegnere, non si può far nulla contro l'idea sarà sempre libera, il sogno sarà sempre libero, ed è questa la dimostrazione che ha dato quest'atleta iracheno. Sembra straordinario, sembra vederlo in quella traiettoria, questo giavellotto fatto in casa, no? Ogni centimetro percorso in aria è un centimetro verso la meta, e quella meta non è l'Olimpiade, non è solo l'Olimpiade, ma è la libertà di una persona e conseguentemente di un popolo tutto. È una parabola straordinaria quella che ci hai descritto oggi, Biagio, al nostro microfono, e le Olimpiadi sono anche questo, sono anche il sogno e il simbolo di chi alle Olimpiadi non ci andrà mai, non c'è mai stato, ma che in qualche modo è rappresentato perché ha potuto partecipare a questa competizione per esserci, da chi invece a quei giochi ci sarà e che quindi ha anche questa responsabilità, il giuramento che viene fatto all'inizio di ogni competizione, delle competizioni olimpiche, non è solo a nome dei presenti, ma è a nome della comunità intera degli atleti del mondo, che in quei valori e che in quel sacro fuoco si riconoscono e quindi tutti sentano questa responsabilità ogni volta che scendono in pista. Tutti sono in quel momento ambasciatori anche a nome e nel nome delle tante Akhmija Akhmed che su quelle piste non sono potute mai esserci, ma che tanto hanno fatto in nome di quegli ideali. Grazie Biagio Vinella per averci raccontato questa grazie storia. A voi. Per A Bordo Campo di oggi è tutto, grazie a Roberto Scaltritti in regia. Vi ricordo che potete riascoltarci dal nostro sito internet www.radio24.it, dialogare con noi attraverso il nostro blog, sempre sulla nostra pagina web, e scriverci alla mail abordocampo@radio24.it. L'appuntamento è per domenica prossima, sempre alle 14.30, e il sabato mattina in replica alle 6.30. Buona giornata da Dario Ricci.